Erni. Radio Onda Rossa esce anche in DAB, diciamo la nuova tecnica di diffusione sonora, e in prospettiva ne risentiremo parlare. Invece, per quanto riguarda la necessità della sottoscrizione nel nostro sito, ci sono le varie modalità di adesione, tradizionali e meno. Saluto Marco Mascia in Sardegna, Maia in Umbria, Lucia Cagliazza di Lupsi, Angelina Waldas qui a Roma, Desde Carlo, Boston, Anna qui a Roma, Doriana Panico in quel di Taranto, Venusia Zozzetta Stramogno di Cuppio di Solvi, fedelissima anche lei, e un saluto a Tabula Rasa, Moschita dei Miramar dall'Olanda, Cecilia Miradoli, Massimo Pasqualetti in quel di Latina, Tiziano Farinacci di Pi Greco. Sempre da queste parti c'è Mariano. Un abbraccio a Simone Scalise di Audio Chaos in Calabria, Francesco Cornello a Bergamo. Laura Spirit Crusher, un saluto anche a Gianluca Becuzzi ed Ernesto Panico Brusati, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta. Allora si va ad iniziare e lo facciamo proprio con Marco Mascia, il suo progetto sonoro. Una avventura, diciamo, proveniente dalla Sardegna per un ottimo musicista che in quest'anno ha prodotto molto materiale. E abbiamo scelto Lapsus Memoriae, un 3 tracce che abbiamo già conosciuto, cominciato a conoscere nelle scorse settimane, e quindi manca, diciamo, la parte finale di questo Lapsus Memoriae, ossia la seconda parte di Time Ago, Ricordi Smarriti, e poi Trying to Remember, tra parentesi, sul filo aggrovigliato della memoria. Don't forget your keys. Your parking brake is on. Finiva così dunque progetto sonoro Lapsus Memoriae, un lavoro dell'agosto del 2023. Dietro a questo progetto c'è Marco Mascia. Io vi invito veramente ad andare a visitare il suo profilo Bandcamp, dove ci sono delle perle veramente musicali, tutte con queste atmosfere che, come dice giustamente Giulia Vassena, che vado a salutare, mood the soundtrack di fantascienza, siderale, volatile, quasi gassoso è il contenuto sonoro della proposta sonora di Progetto Sonoro. E ha ragione l'Astramonio, a Ferretti farebbe bene sentirsi un po' di Marco Mascia. A Ferretti farebbero bene tante cose da fare. Ma noi invece andiamo avanti e passiamo alle cose serie anziché Ferretti, e passiamo alla compilation Deep Red e Tribute to the Cinema of Dario Argento. Ormai i più affezionati sanno che è una compilation ideata da Raffaele Pezzella, che va ad omaggiare questo grande questo grande regista italiano. Tanti artisti, musicisti italiani e non, presenti in questa opera, anch'essa del 2023. Dentro Digipack c'è una bella foto di tratta da Suspiria, un film che uscì nel 1977. Cominciamo con un duo a me diciamo sconosciuto, magari qualcuno di voi ne sa di più: David Strother e Carl Royce in Ipnotoni, un po' difficile, ma tant'è. E poi avremo invece l'italiano Plum con Paura degli specchi. Thank you. due momenti dunque estratti da questa compilation Deep Red, ovviamente significa profondo rosso, ed è dunque intuibile come sia dedicata all'estro e all'arte di Dario Argento. Un momento di David Trotter e Carl Royce, decisamente applicabile alla logica del kraut rock con passaggi di chitarra e di percussione. Il successivo Plum invece, artista italiano molto più dilatato e rarefatto, e nella traccia in questione La paura degli specchi c'era, e non è chiaramente l'unico nell'album, un campionamento proprio da un film di Dario Argento. Plum è Lucio Leonardi, viene da Varese, forse Ernesto Brusati lo conosce. Intanto si sono aggiunti Ottavia, che è stata a lungo qui a Radio Onda Rossa conducendo un ottimo programma sul cinema, la saluto, e abbiamo anche Lucky Wake, la storia dell'ambient romano, Stefano Di Serio. Vado anche a risalutare ad Harlem, Olanda, Mosquita de Miramar, e su questo saluto ci inoltriamo nel mondo di Cindy Talk, una vera e propria istituzione nel campo della sperimentazione. Iniziò una carriera nella metà degli anni Ottanta più improntata sul gothic e l'industrial, 15 anni poi di pausa hanno portato Gordon Sharp, che ora si fa chiamare Cindy Sharp, ad atmosfere molto più, anche in questo caso, sospese, conservando comunque un profilo decisamente industrial. Ne è testimonianza questo ultimo lavoro dal nome Subterminal, 4 lunghi episodi. Sta per partire Where Everything Sparkles and Shines. l'estrema glacialità di Cinder Sharp e il suo progetto Cindy Talk. Da questo Subterminal, lavoro di quest'anno, uscito da pochi mesi, e ricordo che sarà anche a Roma, però nella veste di Becoming Animal insieme a Massimo Pupillo degli Zoo, dove lì recupera anche la vocalità che ha perso nella gran parte del materiale Cindy Talk. Ringrazio tutti quelli presenti sulla chat qui di Facebook, dove si discute di musica e ci si diverte anche, diciamo. Mentre noi lasciamo queste atmosfere, questi viaggi mentali, questi viaggi metafisici, per approdare nel pianeta degli Swans di Michael Gira. Anche questa sera una lunga tirata psichedelico noise appartenente a The Beggar, ultimo lavoro naturalmente per la Young Gods Records, etichetta proprio degli Swans, e noi ci ascoltiamo il brano omonimo The Beggar. stand before you polished golden. I keep a globe of light within. My eyes eroded by derision. They know the purpose of the wind. In every soul there is a craving, suffocating, begging shit. Direi che non sbaglia un colpo, Michael gira i suoi Swans. Questo è The Bad Girl, il brano omonimo, diviso diciamo idealmente in due parti, con la prima parte con atmosfere da incipiente disgrazia e il finale una vera e propria esplosione di intensità. Abbandonati comunque gli esordi più ruvidamente noise, si è dedicato ormai dal 2010 a queste strutture mediate dalla psichedelia, da un certo tipo di psichedelia, che però spesso va a sfociare nelle antiche, diciamo, ruvidità. Fatto sta che The Beggar, al mio modestissimo giudizio, rimane uno dei migliori lavori di questo 2023. E la prossima settimana cominceremo a sentire la lunghissima The Beggar Lover, traccia di 45 minuti che chiaramente sentiremo frazionata. No more. Vado a salutare Maria D'Agostini e Gianluca Becuzzi e proprio con lui andiamo avanti. Becuzzi, vera e propria istituzione della scena sperimentale industriale a partire dagli anni 80, da molto tempo ha intrapreso una ottima carriera solista e quest'anno ci ha regalato due gioielli che portano il nome di We Can Be Everywhere e Black Mantra. Mi chiedono quando cominceremo con Black Mantra. Cominceremo, se tutto va bene, tra un paio di settimane, perché ci tengo a finire anche l'analisi di questo We Can Be Everywhere ristampato e allargato con un altro CD proprio quest'anno. Questa sera è il turno della terza traccia del secondo CD che porta il nome B e di seguito la prima parte del quarto brano dal nome Everywhere.